Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di autotrasporto e logistica. Oggi andiamo in onda da Cernobbio, dove sta per iniziare il terzo forum di Conftrasporto, due giorni di confronto tra analisi e opinioni, con lo sguardo rivolto agli scenari nazionali ed internazionali del comparto, un comparto strategico la cui funzionalità diventa sempre più un elemento centrale per l'intero sistema paese. Poco fa qui a Cernobbio abbiamo intervistato Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, con il quale abbiamo ragionato sui temi al centro dei lavori che appunto stanno per iniziare. Possiamo ascoltare l'intervista. Noi partiamo da alcuni elementi che saranno decisivi nei prossimi anni. La Via della Seta sicuramente coinvolgerà l'economia del nostro paese e sicuramente avrà la necessità di avere un paese connesso, un paese con un sistema portuale di accoglienza funzionante, un sistema dove la logistica sia una realtà presente. Da qui ovviamente la necessità di intervenire, perché tutto quello che purtroppo le nostre indagini hanno rilevato, ed è che l'impresa di logistica e di trasporto italiana ha perso delle posizioni in modo significativo, proprio per quel dumping sociale, proprio per quell'eccesso di burocrazia, proprio per quella incapacità di creare un sistema che duri nel tempo. In Italia abbiamo questo dato: i paesi emergenti, chiamiamoli così, hanno avuto un incremento nei traffici internazionali del 198%. Gli italiani hanno perso quote di mercato e sono passati dall'8% circa al 2%, quindi stiamo diventando irrilevanti. Il problema è che riprende il traffico, ma non degli italiani, quindi per assurdo... Una percezione diretta, basta transitare su un'autostrada. Esatto, per assurdo noi stiamo creando un sistema dove la ricchezza si realizza negli altri paesi e in Italia arriva l'inquinamento. Ecco, noi vogliamo puntare l'occhio e accendere un faro su queste cose. A proposito della Via della Seta, siamo fortemente in ritardo, non lo dice anche Prodi? Sì, il presidente Prodi ha evidenziato come c'è una perdita di credibilità da parte del mondo cinese, che aveva cominciato a investire su Taranto, purtroppo per interventi della burocrazia, sugli escavi che dovevano essere realizzati per consentire alle grandi navi di attraccare, hanno bloccato di fatto i lavori. Hanno creato una serie di problemi a questo investitore, e stiamo parlando di un investitore che è uno dei primi del mondo, che ha deciso di comprarsi il porto del Pireo. A Napoli è stata la stessa cosa. Dopo 19 anni, nel 2006, c'è stato addirittura un intervento di due imprenditori privati che volevano partecipare al finanziamento con 180 milioni di euro. Nel 2016, visto che non si era fatto ancora nulla, se ne sono andati dal porto di Napoli. Ora i cinesi hanno comprato il 49% del porto di Savona. Beh, è evidente che se i tempi saranno ancora una volta ritardati, beh, non rischieremo di perdere questa opportunità. Ed ecco che la Via della Seta assume un altro aspetto, perché entrando dal canale di Suez, andando sul porto cinese che è il Pireo, beh, potrebbe ovviamente permanere la voglia di circonnavigare, come già fanno oggi, oppure di portare avanti l'idea della tratta balcanica, ferroviaria o stradale, e quindi bypassare il nostro paese. Altro che opportunità. Se noi non siamo in grado di dare una risposta in termini di connessione, in termini di risposte a quelli che sono i bisogni della logistica, la logistica è tempo, e quindi se il tempo non viene risolto questo grande aspetto, beh, noi rischiamo di perdere anche questa opportunità. Come abbiamo sentito, tra i motivi che hanno zavorato l'efficienza della nostra logistica c'è una rete infrastrutturale datata o comunque tarata su esigenze, modelli, mercati e parametri ormai superati. Certamente non è solo una questione italiana, il discorso va declinato in chiave europea e soprattutto per le merci esteso alle rotte mondiali. Strategici in tutti i sensi sono i corridoi TEN-T. Uno di questi è il corridoio Reno-Alpi, che collega via ferrovia i porti del nord Europa con quelli della Liguria, attraversando il cuore pulsante del continente. Di questo corridoio nelle scorse settimane abbiamo parlato più volte in seguito all'interruzione della linea in territorio tedesco a causa di uno smottamento, uno stop di 50 giorni, terminato giusto lunedì scorso, che ha avuto conseguenze pesanti anche sul nostro sistema produttivo, visto che da qui passa una fetta importante del nostro export verso il cuore dell'Europa. Tra le opere fondamentali lungo questo corridoio c'è il terzo valico dei Giovi tra Genova e la pianura padana, sarà pronto nel 2022, questa è l'ultima previsione, ma certamente non mancano le incognite. Negli ultimi tempi anche la cronaca giudiziaria si è occupata del terzo valico, e insomma una corsa contro il tempo. A Genova, a Palazzo San Giorgio, sede dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, abbiamo intervistato il coordinatore europeo del corridoio Reno-Alpi, il polacco Paweł Wojciechowski. Well, yes, this is not should not only be Italian priority, but una priorità italiana, ma anche una priorità europea, perché è una sfida globale che dobbiamo affrontare. I traffici globali sono in aumento, poi soprattutto lungo questo corridoio, perché questo è il corridoio prioritario più importante in Europa. Quindi sono previsti dei grossi aumenti di traffico. Dopo l'apertura della galleria, del tunnel del Gottardo, è importantissimo che ci sia, che il collegamento sia pronto, perché le merci devono poi avere la possibilità di essere inoltrati nella zona industriale ricca del centro Europa. L'incidente di Rastatt ha però rivelato una certa fragilità e soprattutto la mancanza di itinerari alternativi. Sì, questo episodio ha fatto sì che l'Europa ha dovuto riflettere su il valore aggiunto del contributo del corridoio. Questo episodio ha fatto sì che ci ha motivati a portare avanti i lavori il primo possibile. Sì, dobbiamo riflettere su quello che riguarda i piani di emergenza, perché attualmente i piani di emergenza che abbiamo riguardano specificatamente certi paesi, certe zone, ma adesso è importante anche a livello comunitario di riflettere su e rivedere i piani di emergenza europei. To look at a little bit broader in the European, from the European perspectives. Voltiamo pagina, ora un focus sul mercato dei veicoli industriali. Dopo un 2016 con il botto e un buon avvio del 2017, si sta assistendo ad una fase di stallo. Il punto con Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di UNRAE, l'Unione dei Costruttori Esteri. Partito molto bene anche il 2017, stiamo chiudendo questi 8 mesi con un più, segno più circa 10%, e questo è molto buono, ma gli ultimi 3 mesi abbiamo visto un calo importante dovuto un po' all'incertezza del mercato, sia all'incertezza dell'economia ma anche all'incertezza di quello che in questa manovra verrà portato avanti. Sappiamo che abbiamo bisogno di questo grande rinnovo del parco circolante che sia più sostenibile, più sicuro. Ricordo che ancora il 97% dei veicoli sono ante Euro 4 e quindi abbiamo bisogno di certezze. Io penso e spero che il governo voglia prendere atto di una continuazione del superammortamento del 140%, ma assolutamente noi vorremmo richiedere di più. Chiediamo il 250% come iperammortamento. Perché questo? Perché il veicolo industriale deve essere visto in una maniera diversa. Il veicolo industriale oggi è connesso, è un computer viaggiante, ha delle soluzioni di cui neanche altri mezzi di trasporto hanno, e quindi vorremmo spingere questo tipo di concetto, perché è corretto che sia così. Questo avrebbe un grande beneficio sull'occupazione e un grande beneficio anche sulla sicurezza e sull'ecologia. Dobbiamo sfatare questo mito del veicolo che è brutto e inquina. Sappiamo che il parco circolante inquina, dobbiamo sveltire il ricambio del parco circolante. Più volte ho detto che a questi ritmi ci impieghiamo dai 13 ai 15 anni, riduciamo questo gap. E ora alcune notizie in breve. Tra le associazioni datoriali e i sindacati si sono interrotte le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. In una nota le associazioni parlano di un'improvvisa battuta d'arresto su materie strategiche per il settore. Prende il via oggi una campagna di controlli straordinari su tir e bus promossa da Tispol, che è la rete delle polizie stradali, terminerà domenica. È slittato a martedì prossimo il termine per la presentazione delle domande relative ai rimborsi dei pedaggi autostradali. Lo rende noto il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Con hashtag Autotrasporti mi fermo qui, siamo andati in onda da Cernobbio, dove oggi e domani si svolge il terzo forum di Conftrasporto. Vi ricordo l'approfondimento su questi temi all'interno di Container, in onda ogni sabato alle 13.15 con Massimo De Donato in studio. Da Andrea Ferro grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.